Olimpia, miti e verità dello sport, di Dario Ricci. Tempi di guerra, tempi di fame, le lacrime del nonno non sono di dolore, ma di emozione per la storia che ci vuole raccontare. 43, 44, il calcio non era priorità, ma la passione scalda i cuori, ammorbidisce atrocità. Cosa da poco. Bani, Borrini, Amenta, Gramaglia, Persia, Scarpato, Tommaseo, Rostagno, Costa, Tori, Angelini. Un 11 straordinario quello che vi ho appena elencato e di cui raccontiamo oggi la storia qui a Olimpia. È l'11 dei Vigili del Fuoco di La Spezia, campioni d'Italia di calcio in un anno che certo non è banale nella storia di questo paese, nella storia italiana, il 1944, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Una storia straordinaria che racconta non solo una vicenda di football, ma soprattutto un passaggio essenziale della vita del nostro paese. Lo facciamo con le note di questa canzone che state sentendo in sottofondo, Addio Domeniche Tranquille, e col suo autore Martino Corti, che è oggi nostro ospite qui a Olimpia. Benvenuto Martino. Grazie, ciao a tutti. E poi collegato al telefono un autore, regista, attore, ma anche, diciamolo, grande tifoso dell'Inter, e appena vi dirò il cognome capirete perché. Benvenuto Gianfelice Facchetti a Olimpia. Ciao, buongiorno a tutti. Allora Martino, Gianfelice, splendida intanto Martino l'idea di questa canzone dedicata a questa squadra straordinaria, i Vigili del Fuoco di La Spezia. Ma voglio farvi sentire cos'era La Spezia in quegli anni, durante la Seconda Guerra Mondiale, e che importanza anche strategica aveva in quel conflitto. Squadriglie di sommergibili si apprestano a lasciare l'ormeggio per prendere il mare ed effettuare esercitazioni di attacco e lancio di siluri contro navi in moto. Raggiunta la zona di mare assegnata per le esercitazioni, i sommergibili all'avvistamento del bersaglio si immergono per effettuare il lancio dei siluri contro la nave bersaglio. Potenti e svelte sagome di navi da guerra della Marina italiana all'affonda in una delle nostre principali basi navali. Ecco, nel 1944 La Spezia, più che base navale di grande importanza strategica, era diventato soprattutto oggetto dei bombardamenti alleati, visto che l'8 settembre del 43 aveva spaccato in due il paese e costretto gli italiani a una scelta drammatica: o con il regime fascista oppure diventare partigiani e affiancare la resistenza. L'8 settembre 43 è anche la data che di fatto dà il via alla nascita di questa squadra così particolare ed estemporanea. Ce l'ha raccontata questa genesi un altro nostro amico, Armando Napoletano, giornalista e autore del libro Un giorno di allarmi aerei, dedicato proprio alla Spezia. Una squadra che si formò praticamente strada facendo dopo che l'8 settembre l'allora presidente della federazione, Mauro, un ex arbitro, comunicò che qualcosa si sarebbe fatto. Quel qualcosa poi equivaleva praticamente al campionato dell'Alta Italia, cioè una parte di Italia libera che poteva anche giocarsi qualcosa su un campo di calcio. Ed è una squadra che ebbe, se vogliamo, una sorta di Schindler, di Perlasca, in un personaggio che si chiamava Giacomo Semorile, che non era altro che il segretario generale dello Spezia, che si fermava praticamente nel 42. Spezia, ricordiamolo, fu una delle città più bombardate della Seconda Guerra Mondiale. Semorile non fece altro che chiedere a un allenatore che era un farmacista di Moneglia, Ottavio Barbieri, che era stato il secondo di Vittorio Pozzo per qualche anno in nazionale, che aveva giocato anche con la maglia azzurra alle Olimpiadi di Anversa, di mettere su una squadra, e per farlo doveva ricorrere a qualche alchimia, e l'alchimia fu il 42esimo corpo dei Vigili del Fuoco, quindi dei veri e propri calciatori arruolati e con tanto di divisa dei Vigili del Fuoco. E vorrei ricordare anche simpaticamente, perché mi raccontarono questo anche loro stessi, che alcuni di questi personaggi poi divennero veramente vigili del fuoco e andarono in pensione, morirono da vigili del fuoco. Allora Gianfelice Facchetti, di fatto questa squadra dei vigili del fuoco che diventerà campione d'Italia nasce con un espediente, no? Perché arruolare questi calciatori come vigili del fuoco era l'unico modo, Gianfelice, per evitargli il servizio militare e quindi la partenza per il fronte. Questo e poi sicuramente c'è anche una componente fortuita, nel senso che in quel campionato di guerra, così come è stato ribattezzato, chi si trovava in servizio in certe zone d'Italia poteva giocare con la squadra fucina. Questo ha fatto sì che in qualche modo le carte venissero mescolate in maniera anche abbastanza casuale, per cui certe squadre che normalmente non potevano puntare a posizioni di vertice in classifica in quel momento invece diventavano più rafforzate del normale, e quindi in qualche modo si creava una parità che di solito non c'era per storia, per tradizione con la squadra. Anche in virtù di questo era una squadra più forte del solito, ecco. Beh, certo, erano cambiati tutti i criteri di reclutamento anche per quanto riguardava il calcio, proprio perché la drammaticità della situazione imponeva misure straordinarie. Ecco, Martino Corti, hai scelto di raccontare questa storia in musica, no? Ecco, cosa aggiungono le note a questa vicenda epica, ma per molti tratti anche sconosciuta del nostro calcio? Ma è come quando si guarda un film dove si possono unire le immagini, la musica, le parole. È chiaro che più sensazioni, no, ci sono e più cose emotive ti arrivano, più la storia ha emotività, crea emotività in chi la ascolta. A me la cosa che ha colpito di più era proprio il fatto che questa storia non la conoscesse nessuno, al di fuori ovviamente di La Spezia. E quindi ho provato insieme al chitarrista Luca Nobis, che è sempre con me, che scrive con me, io ho scritto il testo e lui ha musicato in maniera davvero perfetta dal mio punto di vista, appunto facendo venire fuori anche l'emotività, perché io dico sempre che questa è una storia di calcio, ma è una storia di vita e di amore sostanzialmente, più che di calcio, e quindi speriamo di farla scoprire anche noi, di contribuire anche noi nel farla scoprire a più gente possibile e a emozionarli con il nostro racconto. Ecco, allora proviamo a entrare nello spogliatoio di quella squadra, sempre con la testimonianza di Armando Napoletano, per capire chi erano quei giocatori e quali un po' erano i leader di un gruppo così estemporaneo. Sentiamo. Il leader in campo sicuramente era Vando Persia, che la storia del calcio italiano vuole sia stato praticamente il primo libero. Fu un'invenzione di Ottavio Barbieri, mutuata da William Garbutt e da Chapman, due tecnici inglesi, che avevano portato della novità, ma non quella di scalare uno dei due difensori, il destro per la fattispecie, dietro a tutti. Persia in pratica fu il primo vero libero del calcio italiano ed era una specie di leader in campo, una persona molto burbera ma di grandissima tempra. Quello che però era il leader carismatico, la figura spezzina, la figura che forse meglio di tutti incarnava quella squadra, si chiamava Mario Tomaseo, e fu da lui che partì un po' tutta la vicenda, perché Tomaseo si presentò un giorno nella redazione del mio giornale, mi cercò e aveva un quadro sotto il braccio, una cosa molto simpatica, mi disse: io le regalo questo quadro, ma lei mi deve fare un enorme favore, mi deve rispolverare dall'armadio una vicenda. Da lì partì in pratica tutto il viaggio magnifico di conoscenza dei superstiti, delle mogli e dei racconti e di una favola anche giornalistica che solo averla vissuta è stato molto bello. Comincia il campionato, addio domeniche tranquille. Ecco, Martino, vedo la pelle d'oca che hai e che condividiamo. C'è questa esigenza del raccontare, no? Raccontare anche attraverso le note, anche attraverso la musica è ridare vita di fatto a quei campioni. Sì, io quello che il lavoro che faccio, che poi è raccontare storie, che siano in monologhi o in musica, a me viene voglia di raccontare una storia quando una storia mi emoziona, e questa mi ha emozionato talmente tanto che ho detto cerco di far emozionare, di farla scoprire a più gente possibile. A proposito di quello che diceva Armando, nel video ufficiale di Addio Domeniche Tranquille, che si trova ovviamente su YouTube, c'è l'abbraccio il mio abbraccio con l'unica ad oggi sopravvissuta superstite dell'epoca, una moglie di uno dei protagonisti, che commossa mi abbraccia all'interno dello stadio Picco di La Spezia. Credo che sia stato un momento, a proposito di emozioni, un momento davvero super emozionante. Tempi di guerra, tempi di fame, si dormiva coi vestiti più veloci per scappare, si portavano cimarie per poterle barattare. È il luglio del 1944, la squadra di calcio dei Vigili del Fuoco di La Spezia si accinge a diventare campione d'Italia. Quella squadra, nata da un'invenzione, da un'idea, ma soprattutto dalla passione sana e viva anche durante quel conflitto per il pallone, per il calcio, vince il proprio raggruppamento di un estemporaneo campionato italiano di guerra nel primo turno, il girone D della zona Emilia, per poi sempre nella stessa zona imporsi anche nella semifinale B davanti a Carpi, Corradini, Suzzara e Modena. Nelle qualificazioni internazionali fu il Bologna a cedere il passo ai Liguri, che arrivarono così al girone finale per il titolo, che venne disputato a Milano fra il 9 e il 20 luglio. Di fronte agli spezzini, due squadre importanti come Venezia e Torino, sì, il grande Torino. Finì 1-1 la sfida contro i Veneti, ma l'incontro decisivo fu quello contro i Granata, rinforzati addirittura da Silvio Piola. Ebbene, ma per capire come viveva e quante storie si intrecciavano in quella squadra, sentite cosa ci ha detto Armando Napoletano, l'autore del libro Un giorno di allarmi aerei, dedicato proprio alla squadra dei Vigili del Fuoco di La Spezia. La squadra di solito partiva con su un autobotte e affrontava l'Italia in maniera veramente incredibile e inenarrabile, ma lo faceva portandosi dietro tantissime cose tipo sale e rame che recuperavano qua dalla zona. Queste cose poi diventavano baratto prima della partita, perché la squadra praticamente non effettuava il riscaldamento, e riuscivano a barattare con farina e uova quello che loro portavano dal golfo. Poi c'è una vicenda molto bella, sempre legata all'ultima partita, quella sia prima della partita che nei giorni antecedenti, perché la squadra arrivò presso la caserma leonessa di Brescia per essere ospitata dai commilitoni lombardi prima della gara, per poter dormire e mangiare, e avvenne praticamente che, siccome avevano preso acqua e l'autobotte era praticamente aperta, le maglie erano praticamente fradici e vennero messe nei forni, proprio quelli del pane, solo che qualcuno si scordò e molte di queste maglie praticamente bruciarono o bruciacchiarono, tant'è vero che il giorno della partita lo Spezia giocò contro il Torino vincendo con alcune maglie che erano impresentabili. La cosa però ancora più bella e curiosa di aneddoti che veramente popolerebbero divisioni fantastiche qualunque tifoso è quella di Vittorio Pozzo, che allenava allora il Torino, il grande Torino rafforzato da Silvio Piola, quindi il centravanti della nazionale, uno dei più grandi cannonieri del campionato italiano, che poco prima della partita entrò nello spogliatoio dello Spezia e dei Vigili del Fuoco e disse: è un onore giocare con voi, ma non è un disonore se oggi perdete 3-0 vista la distanza. Fece in tempo a girarsi, ma proprio Mario Tomaseo, l'anima di questa storia, gli tirò una sedia che per poco non lo colpì, ma colpì praticamente una porta vicino all'uscita. Insomma, quanta voglia Martino avevano di vincerlo quello scudetto. Gli spezzini scesero in campo con Bani, Persia, Borrini, Amenta, Gramaglia, Scarpato, Rostagno, Tommaseo, Angelini, Tori, Costa. Angelini sigla il vantaggio dei Liguri, Piola pareggia, poi ancora Angelini decide il match nel primo tempo. Nel finale la traversa impedisce a Valentino Mazzola di cogliere il pareggio. È il trionfo, perché nella terza partita il Toro supera il Venezia. I pompieri, pensate, appresero di aver vinto lo scudetto quando, già sulla strada del ritorno da Milano, che aveva ospitato le finali, seppero che i Granata avevano strapazzato i veneziani per 5-2. Beh, questo è la storia di uno scudetto leggendario. Gianfelice Facchetti, un calcio d'altri tempi, no? Abbiamo ricordato, ma con la stessa urgenza di essere parte della storia di questo paese, della cultura di questa nazione, mi sembra, vero? D'altri tempi, sicuramente di tempi anche particolari, perché appunto in mezzo ai bombardamenti, in mezzo allo sbarco degli alleati che risalivano da sud verso nord, quindi sicuramente in condizioni irripetibili per tutto quello che c'era attorno, ma sicuramente è proprio la semplicità con cui veniva vissuta l'esperienza che probabilmente arriva al cuore, appunto questi episodi che racconta Armando Napoletano, le magliette bruciate, le trasferte sotto la pioggia, il fatto che giocare fosse veramente questione di sopravvivenza, perché ti permetteva di scambiare farina con sale, quindi insomma proprio la vita proprio nella sua accezione più primitiva, quindi insomma il desiderio di sopravvivere, prendere quello che ti serve e dare quello che hai per riuscire a svegliarti domani mattina e viverti un'altra giornata, quindi insomma lì siamo forse nell'accezione più pura dello sport e del vivere. Ecco, Martino Corti, c'è un ulteriore capitolo di questa storia, no? Perché poi quello scudetto non entra ufficialmente nell'albo d'oro del campionato, viene revocato vista la peculiarità delle condizioni in cui viene disputato, ma nel 2002, quindi parecchio dopo, ma fortunatamente, la Federcalcio compie un gesto che rende onore a quei campioni d'Italia, vero? Esatto, ecco, no, la cosa che mi piaceva ricordare è il fatto che nella canzone mi aveva colpito il fatto che questi protagonisti non avessero avuto un riconoscimento ufficiale, e molti di questi protagonisti se ne sono andati senza averlo. Allora io mi sono immaginato i nonni che raccontano questa storia ai propri nipoti, no? Gli stessi protagonisti con i nipoti sulle ginocchia a raccontargli questa storia, e proprio nella canzone mi sono immaginato un nonno che racconta al proprio nipote questa storia meravigliosa, perché il riconoscimento purtroppo è una cosa necessaria affinché una storia possa essere bella. Beh, il riconoscimento che noi possiamo dare è l'ascoltarle le storie, quando si trova una platea che si lascia incantare, sedurre o semplicemente si rende partecipe emotivamente di una storia, ebbene i protagonisti inevitabilmente vivono da quel momento per l'eternità, no? E ci riscopriamo comunità, così come lo siamo stati oggi in compagnia dei campioni dei Vigili del Fuoco di La Spezia. Gianfelice Facchetti, a te l'onore della chiusura. Ti chiedo, che eredità ha lasciato o lascia quello scudetto, con tante virgolette ma anche con tanto onore, nella storia del nostro calcio e nella storia della nostra cultura sportiva? Beh, sicuramente quello che resta è il fatto di una pagina di sport vissuta in tutta la sua potenzialità dal punto di vista agonistico in primis, perché è stato un campionato a tutti gli effetti ed è bello quindi, come dicevate, che sia stato riconosciuto per quello che è stato, ma anche dal punto di vista emotivo, umano e storico, perché lì il calcio incontrava veramente la storia e la storia di questo paese in un momento decisivo per quello che è il nostro presente, e perché probabilmente anche senza quella pagina oggi saremmo un'altra cosa. Quindi i Vigili del Fuoco di La Spezia sono stati parte del patrimonio che ha permesso all'Italia di rialzare la testa già probabilmente da allora, in quel momento di passaggio in cui dalla guerra si cercava di uscirne a testa alta, e anche attraverso una partita di pallone si poteva resistere, e quindi forse tutto questo è la cosa più bella che ci hanno lasciato e che le parole, la canzone di Martino ci ricordano. Eh sì, eredità di quella vicenda è anche Addio Domeniche Tranquille, la canzone di Martino Corti che ci ha accompagnato fino a qui. Martino, tra l'altro, in queste settimane sei in scena, ecco, dove possiamo trovare tutte le informazioni sul tuo spettacolo? Sul web siamo dappertutto, quindi il sito martinocorti.it, la pagina ufficiale di Facebook, Twitter, Instagram, dovunque, quindi... Perfetto, allora ti cerchiamo nella rete e poi ti veniamo poi a trovare in a scena. Teatro però. Ecco, esattamente. Allora, grazie a Martino Corti per essere oggi stato ospite qui a Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi della curiosità e di avermi ospitato. E grazie a Gianfelice Facchetti per essere stato oggi ospite di Olimpia. Grazie a voi, buona giornata. Davvero bella la storia dei Vigili del Fuoco di La Spezia che abbiamo rivissuto insieme oggi a Olimpia. Vi ricordo che potete scriverci alla mail olimpia@radio24.it e riascoltare tutte le puntate in podcast attraverso il nostro sito web radio24.it. Un grazie a Gianmarco Ferronato in regia. L'appuntamento con Olimpia è sempre per domenica prossima e sempre alle 20:30. Ancora una buona serata da Dario Ricci.